La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca dove nessuno si salva da solo e ci può salvare unicamente insieme. In questi giorni penso spesso alle persone sole, penso ai senza dimora che non hanno una casa che li protegga. Casa. La casa è una stanza per dormire, io penso. È troppo importante casa, però. Io resto a casa. Voci di chi non ha casa. Cittadini e cittadine senza dimora raccontano come hanno vissuto il lockdown a Trento. Capitolo 3. Un piccolo luogo di pace. Un palazzo, 3 piani. E un sotto, una porta aperta. Non è una casa privata. Non è noi spaccato qualcosa, no. Noi trovata aperta così. Noi pulito, noi è stato lì. Non c'è niente il bagno, non c'è un bagno, non c'è niente. Il bagno fuori, c'è il giardino. Coperto, sì, arrivare piove, ricoperto da piove, basta. Ma è freddo come fuori. E noi era un tipo, già 2 anni noi era lì. Arrivato polizia municipale. Loro come è arrivato, documenti hanno documenti, già preso documenti. E alla fine loro ho fatto una denuncia per tribunale, no tribunale, così. Quando abitavo sulla strada ho sofferto tanto la mia vita, peggio di più di un cane. Abitavo via Macani, Roccofort, vicino Gardolo abitava, sulla strada abitavo, con mio cane Rigo. Non mi portava con il zaino, mi portava con la coperta, mi portava 4 coperti, dopo mi portava anche, mi metteva con i cartoni, no? Mattina mi svegliavo con mio cane, mi stava in piazza Dante, mi girava troppo freddo, più stai anche male, cosa fai la tua vita? Ma vita di merda, non si vede. Quando mi ha dato con te, da quando c'era la casa, mi stavo con te un po' calma, un po' tranquilla. Quando abitavo sulla strada erano più nervosa, erano più, mi facevo troppo casino, cosa fare. La strada è più pericolosa che come la casa più dormi più bene. Non c'è paura, mai non ti svegli con un'ora, dopo un'ora dormi, dopo un'ora ti svegli, no. Io quando mi dormivo con il cane mi svegliavo subito. C'è paura di un altro, di questi drogati, di questi che, capito? Quando ho dormito sulla strada ho preso anche con un cortellato sulla spalla. Quando ce l'hai la chiave della casa e basta, sì. Tu posso dormire più a posto. Allora, quando è stato dici, oh che bella aria che gira. Ero bello sulla strada quando, però quando arriva l'inverno, arriva il freddo e non sai dove andare, allora già i disagi aumentano. Il freddo devo anche dare l'ultimo colpo, devo morire, diciamo, per dire la verità. Ti senti come un animale che è sulla strada senza mangiare, senza niente. Ogni giorno vivi nella giornata. E non hai, come si chiama, non hai un punto di riferimento. Diciamo, vivi giorno per giorno, basta che ti arrivi al prossimo giorno, quando hai niente. Quando hai una casa, hai un posto caldo, hai da dormire, hai un posto dove vuoi ritornare, vuoi guardare la TV per scherzare un po'. poi anche leggere il giornale, poi fatti la vita interna di una casa, diciamo. Hai una prospettiva di vedere in avanti? La casa, secondo me, è necessario. Una cosa fondamentale, il base. Se non hai casa vuol dire non hai niente. Se non hai tetto non hai niente. Io in Italia da 35 anni. Io ho lavorato per 4 anni nelle gallerie. Io ho fatto di tutti, ho lavorato parecchi anni qua in Italia. Mi trovo proprio veramente in una situazione molto molto complicata. La mattina vado a lavorare alle 7:30, devi essere sul lavoro. Alle 5:30 qua sono qua in città e gira con la vestita sporca. E girava per le città. E alle volte lavora 3 giorni di fila. Il quarto giorno non ce la faccio più, perché addirittura ti trovo la maglietta appiccicata addosso, del sudore, roba varia, e non riesci, fisicamente diventi debole, tutti pieni di fango, senza documenti, un barbone in tutti gli effetti. Per fortuna c'è questo punto di incontro, c'è anche i cappuccini che aiutano gente, danno qualcosa. Ci senti comunque un posto che si viene, ti raccoglie, capito? Ti tenga almeno queste ore, di 8 ore al giorno. E sentono anche come compagnia qua, capito? Non ti senti da solo, quello è importante. Quando io rimango da solo per tanto tempo mi sento male. Se ti rimani seduto su un parco o qualcosa, anche se non ci rompe nessuno, era dura. Volontari, aiutare per me, nuovi vestiti, calzini nuovi, scarpe, tutti, coperte nuove, pulito, tutto organizzato, di ostello, a colazione, caffè macchiato, cosa vuoi, naturale, tutto, biscotti, molto buono, organizzato tutto, cucinare buone ragazze, cucinare calda, mangiare come mia morta mamma di Bologna, no come ristorante, come casa. Complimenti per tutti. Volontari numero 1, bravi, simpatico, grande squadra. Complimenti per tutti. La casa diciamo che è come la tomba della vita, se non ce l'hai la casa, una camera, qualcosa, non ce la fai a resistere con le gente, se ce la fai però ti soffri, se tu vivi con gli altri sempre ci sono casini, anche con il tuo familiare non credo che trovi il bene, anche cioè, sai, uno sporca, uno ce l'ha un carattere, tu ce l'hai un altro carattere. La casa deve essere la mia, non è mia casa, vuoi dire casa, però una porta che chiudi per te. È famiglia, è un posto dove ti puoi riposare, è proprio un pezzo di cuore, comunque un pezzo di famiglia a casa. La casa diciamo che è piccolo luogo di pace di ognuno di noi, perché diciamo fuori c'è un po' il bordello, tu esci, le macchine, il traffico, la gente, poi quando torni a casa torni in pace, sei diciamo libero di fare le cose che ti vanno di fare, perché sei a casa, insomma. Io definirei casa come libertà, insomma. Ma io non sono tanto bravo a fare pronostici o a fare cose che chissà. Io vivo nella realtà, quindi non posso immaginare la casa che posso avere un domani. Se ce l'ho, beato me. Tra coloro che vivono nella realtà ci sono uno scrittore e un musicista. Potranno dedicarsi al loro lavoro anche se rinchiusi nella scatola?